Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ci siamo pronti per l'accensione dei semafori rossi per il via del Gran Premio di Monaco con la prima fila tutta Mercedes. Andiamo, 3, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio di Monaco. Partono adesso con Rosberg che parte forte, Hamilton si accoda, parte forte. Seconda vittoria consecutiva per Nico Rosberg sulle strade del Principato. Insomma, è finita come era iniziata. Rosberg è partito dalla pole position, è arrivato primo, secondo Hamilton, sesta vittoria su 6 per le Mercedes, quinta doppietta consecutiva. Non ci siamo annoiati solo perché in mezzo c'è stato un po' di autoscontro, c'è stata una Ferrari che ha dato dei segnali contrastanti, però adesso ne parliamo. Laura Vanossi, autore di questa puntata, Valeria Bernardi in regia, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Oggi parliamo molto evidentemente di Carletto Ancelotti, della decima, della nazionale che in questi minuti si sta ritrovando a Coverciano, però non possiamo non partire dalla Formula 1. E allora, per rendere divertente una stagione che è abbastanza noiosa, questo mio giudizio personalissimo, non potevamo che convocare Leo Turrini, il maestro dei giornalisti sportivi di Formula 1. Ciao Leo. Ciao a tutti. Che presentazione, eh? Beh, insomma, sei molto caro. Sì. Dove vuoi cominciare? Io partirei da Polifemo. Ecco. Non so se tu hai seguito il Gran Premio. No, ho seguito, che a un certo punto gli è entrato non si sa cosa nell'occhio. Bravo. Si è staccato da Rosberg. Allora, stiamo parlando di Hamilton. Hamilton era talmente arrabbiato con Rosberg per quello che è accaduto ieri nelle qualifiche che è accecato dall'ira. Polifemo, il ciclope, ci vedeva da un occhio solo, hai capito? Io credo che la cosa rilevante di questa gara sia la definitiva archiviazione della finzione di amicizia tra il nero della Mercedes. Del resto non poteva durare, sono in possesso di una macchina stellare nettamente superiore a qualunque concorrenza, il titolo alla fine lo vince uno solo, quindi allacciamo le cinture perché ne vedremo di cotte e di crude durante l'estate. Sì, siamo alla guerra fredda in casa Mercedes. Ieri ma c'era state... tanto fredda, sai, se tu hai ascoltato il team radio di Hamilton durante la corsa sembrava di sentire Balotelli quando fa dei te lo faccio onda, sentire, quello del ventunesimo giro. Spieghiamo prima rapidamente cos'è successo. Hamilton voleva rientrare un giro prima, safety car in pista per un incidente, il team non chiama lui, non chiama Rosberg, insomma non si capisce lì chi abbia deciso cosa. Hamilton, team radio se la prende così. Team radio per Hamilton. I can't believe that we just had to pit. Please inform me of what is the next option I have. Continua. So this is going to be a race to the end. So it'll be all down to tire deg or either weather conditions. Oh, traduzione veloce, Leo, che poi è quello che ha detto anche dopo in conferenza stampa Hamilton: se me la sono presa, io non me lo ricordo, però solitamente se c'è un incidente si fa rientrare, invece il box non ci ha chiamato, non mi ha chiamato. Io c'è un bel ambientino lì, d'altronde ripeto, non si poteva immaginare che continuassero a simulare di essere pappa e ciccia. Quello che è in palio è troppo importante sia per Nico che per Lewis. Sai, la storia di ieri secondo me ha incrinato anche quel brandello di fiducia reciproca che ancora poteva esistere e resistere, perché Hamilton chiaramente lo si vede anche, come dicono gli anglosassoni, dal body language, dal linguaggio del corpo sul podio eccetera, si è convinto che Rosberg ieri a Monte Carlo l'ha fatta sporca, cioè lui pensa che Rosberg abbia simulato l'uscita di pista per impedire a Hamilton di attaccare la sua pole, con ciò ripetendo una geniale manovra del carissimo Schumi, al quale va sempre il nostro pensiero, nel 2006 a Monte Carlo, quando per fregare Alonso parcheggiò la rossa alla Rascasse. Ora, sai, in casi del genere si scivola sul processo delle intenzioni, perché poi riuscire a dimostrare la malafede, sì, è pressoché impossibile. È impossibile. Infatti io sono d'accordo con la giuria che ha mandato assolto Rosberg, ma capisco che Hamilton abbia questo dubbio, cioè ormai nel nero si è fatta largo la persuasione che il bianco della Mercedes sia disposto a usare qualunque mezzo pur di batterlo. Sì, e che magari la Mercedes tedesca preferisca, abbia piacere di vedere Rosberg, pilota praticamente di casa, vincere piuttosto che Hamilton. Sentito anche Prost prima del Gran Premio dire, è ovvio quello che è successo ieri nelle prove, in fondo è la prima volta dopo tanti anni che abbiamo una rivalità di questo genere all'interno della stessa scuderia, con una scuderia sicura praticamente di vincere il mondiale. Ti faccio sentire Alonso invece, Leo. Alonso, dopo la gara. E speriamo, penso che ci sono sempre delle novità in tutte le gare, abbiamo cercato di migliorare la macchina a tutte le gare. Certo, gli altri hanno portato sempre anche dei sviluppi, quindi abbiamo mantenuto purtroppo il distacco con i top, però in Canada speriamo che tutto quello che si porta veramente ci faccia migliorare e ci metta in una posizione ancora più vicina al podio e possiamo avere un po' di divertimento in questa stagione. No, Alonso sta parlando del Canada, cioè della prossima gara dove dovrebbe arrivare il pacchetto di sviluppo della Ferrari. Alonso oggi quarto, però se permetti, secondo me più deludente di Raikkonen, che ha dato segnali di vita, è stato protagonista di un paio di incidenti, però sicuramente ha dato il segno di essere vivo sin dalla partenza. Sì, io penso che Kimi senza le sventure è stato danneggiato da un doppiato quando c'era la prima safety car, probabilmente sarebbe salito sul podio. Fernando ha fatto una corsa normale, ha capito che non poteva neanche tenere il passo della Red Bull di Ricciardo e si è accontentato. Noi dobbiamo essere molto onesti, come lo è stato appunto Alonso nell'analisi che hai fatto ascoltare. La Ferrari è questa qui, non è che quando la Ferrari porta un pacchetto di sviluppo la Mercedes o la Red Bull rimangano ferme. Quindi insomma io credo che in questa stagione sarà molto difficile avere delle soddisfazioni. Speriamo che la lezione ricevuta e le esperienze accumulate consentano agli uomini di Maranello di dare Alonso e Raikkonen una macchina veramente competitiva per il 2015, ma nel 2014 onestamente insomma siamo al sesto Gran Premio, la Ferrari è andata sul podio una volta e non credo si possa discutere la qualità di chi la guida. Sì, raramente c'è stata vicina. Oggi senza gli autoscontri ci sarebbe quasi certamente arrivata con Raikkonen, però siamo davvero alle briciole. Grazie Leo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie Leo Turrini. Ciao. 122-118 sono i punti, Rosberg Hamilton nella classifica mondiale, poi Alonso staccatissimo terzo a 61, Raikkonen è fermo a 17, pensate. 800-24-0024 per dirci cosa ne pensate della Ferrari, del Giro d'Italia che oggi celebra l'impresa di Fabio Aru e poi di Ancelotti e del suo Real Madrid. Traffico. Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e simple position. Tutti convocati. Allora intanto saluto e ringrazio Nicolò Schira, compagno di Panorama, qui per parlare di mercato, perché parliamo anche di mercato. L'ultima, pochi istanti fa, il presidente del Siviglia che ha provato a mettere chiarezza sulla questione di Unai Emery. Esattamente, un rinnovo biennale già trovato, martedì dovrebbe arrivare la firma, dunque per il Milan poche possibilità, a meno che non sia il tecnico ex Valencia a forzare la mano e a chiedere di andarsene. Sì, percentuali bassissime, così come ieri si sono azzerate, ammesso fossero mai esistite quelle di Ancelotti. Venerdì vi avevamo sfidato nella gara dei pronostici sulla finale di Champions League. Devo dire che siete stati bravi, eh? In tanti avete scritto, vince il Real, vince Ancelotti, si va ai supplementari, però nessuno ci ha preso in pieno, nemmeno noi in studio. Vi faccio sentire Pardo e Piantanida. Per me dice il Real 2-1. Atletico Madrid ai rigori, vince. Però, solo qui avete sentito qualcuno pronunciare il nome di Godin addirittura. Il pronostico del cuore è 1-0 Atletico Madrid e vamos col Ciolo. Il pronostico così della ragione è quello che dice Carlo, cioè 3-0 Real Madrid e via. Quindi mezzo sbagliato e mezzo giusto. Ho sbagliato anch'io venerdì, anche se sono arrivato vicinissimo, 150 secondi a prenderla in pieno, risultato compreso. Simeone concederà ad Ancelotti qualsiasi cosa tranne che il gioco verticale. E quindi l'Atletico Madrid, secondo me, metterà le ragnatele in campo per 90 minuti, alla fine un golletto lo fa e la Coppa la porta a casa. E poi è arrivato lui, il numero uno, il vincitore. Il vincitore è... Ha vinto qualche cosa? And the winner is... Io dico Real Madrid 4-1, doppietta di Cristiano Ronaldo e Carletto Ancelotti che alza la decima. E io sarei contentissimo. Lo posso dire, Carlo Genta, un'immensa e immeritata botta di sedere. Botta di culo totale. 4-1, come si fa ad azzeccare un 4-1 in una finale di Champions? No, ma comunque chiaramente pronostico sbagliato, perché la mia idea era 4-1 facile in 90 minuti eccetera, poi quello che è successo è stato surreale. Eppure passerai alla storia per quello che ha azzeccato. Già ieri sera io ti avviso su Twitter, c'erano commenti entusiastici, il Genta per una volta l'ha presa. Carlo Genta l'ha presa, ha vinto il suo concorso, 4-1, Carletto alza la coppa, è quello che è successo. Oggi grandi feste per Ancelotti, ho letto anche delle cose secondo me difficili da capire, tipo pagelle in cui si dà un voto altissimo ad Ancelotti e un voto bassissimo a Simeone per la gestione della partita di ieri. Io non so se tu sei d'accordo, pur ancelottiano, no, di ferro. No, è il contrario. Cioè, ieri Simeone ha dominato mentalmente la partita, l'ha preparata meglio. Non dimentichiamo che Ancelotti sull'altare di questa partita ha sacrificato la Liga, perché, come dicono a Bologna, l'ha data su in un campionato che poteva, basta guardare i risultati, che poteva vincere. Con Real Madrid si è giocato tutto sulla ruota della Coppa e la stava perdendo fino a un pugno di secondi dalla e poi nel calcio sirena. Può capitare di tutto, può capitare anche che da una quasi certa sconfitta si passi alla vittoria, al trionfo, anzi in una notte che comunque è stata di grandissime emozioni e che abbiamo provato a riassumere così. Va Juanfran a rifar, rifa Juanfran, gol in peina, corner, ahora lo mete directo, ahí está Modric, el remate. Reduce d'aver vissuto a Madrid in questi giorni, Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Non si è dormito questa notte a Madrid, ma questo lo stiamo leggendo un po' ovunque. Dimmi se sei d'accordo anche te sul fatto che, al di là, al netto del risultato, Simeone non l'abbia poi persa così nettamente questa Coppa. Guarda, è un discorso molto scivoloso, perché ovviamente il risultato del calcio è tutto. È tutto, e dal risultato scaturiscono anche i giudizi. Penso si sappia, anche ormai i lettori, chiunque, che i giornali, quando ci sono delle partite di sera, noi che andiamo insomma allo stadio e dobbiamo trasmettere il pezzo, dobbiamo mandarlo pochi minuti dopo la fine della partita per motivi di tempi, di chiusura, eccetera. E quindi potete immaginare tutti che ieri sera al 92esimo minuto stavamo tutti per inviare il pezzo sull'Atletico Madrid. Sì, diciamo la verità, era già in pagina, Andrea, altro che, esatto, stavamo per inviare, era già in pagina, titolato, esatto, mezzo con stampato. L'intensità alla difesa, il Real Madrid che faceva un buco dell'acqua ed era la vittoria di Simeone e la sconfitta di Ancelotti. Poi la palla di Ramos entra in quel modo, la partita cambia e allora bisogna anche magari modellare i giudizi su quello che alla fine è il risultato. E possiamo anche dire, ad esempio, che Simeone ha preparato perfettamente la partita a livello tattico, ma ha sbagliato enormemente nella scelta di Diego Costa, che lo ha privato di una sostituzione dei supplementari che gli sarebbe stata utilissima. E al tempo stesso l'Atletico, se proprio vogliamo andare a guardare come lo svolgimento della partita, rischiava di vincere una finale di Champions League con mezzo tiro in porta. E quindi sì, magari è pure mezzo sbagliato. Sì, eppure mezzo sbagliato, anche se in realtà fino all'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari non che il Real Madrid avesse creato chissà quali occasioni. Carlo... Però si è guadagnato la sua gloria con quel quarto d'ora finale pieno di ardore, devo dire, e con la palla che aveva iniziato a girare velocissima e che aveva messo in difficoltà l'Atletico. Quindi quel quarto d'ora finale è stato la rampa su cui poi il Real Madrid si è arrampicato per fare il pareggio e poi per dilagare nel secondo tempo. Alla fine è una vittoria nei supplementari, alla fine è una vittoria, diciamo così, giusta, ma perché alla fine il Real ha infilato 4 gol e l'Atletico 1. Dal punto di vista tattico invece l'aveva vinta Simeone la partita. Però sì, assolutamente, l'aveva incartato come prima di lui Mourinho, il Tata Martino esatto. e tanti altri colleghi della Liga in giro per l'Europa. Carlo, perché ha vinto Ancelotti? Perché Ancelotti è riuscito a vincere la decima, cosa che non era riuscita ad altri, come Capello, come Pellegrino, come lo stesso Mourinho? Perché lui sì e gli altri no? Ma perché è un uomo da coppa, perché ha gestito, alla fine si è trovato, lo dicevo prima, nella situazione di gestire questo finale di stagione, lo ha fatto come quando era al Milan, cioè ha mollato il campionato, ha preparato esclusivamente anche nella testa dei giocatori questa finale. Poi Andrea dice bene, alla fine Real Madrid ha meritato perché questi italiani li ha giocati in quella maniera, ma quando li ha giocati in quella maniera? Quando ha visto morte in faccia, è uscito da quel buco che l'Atletico Madrid aveva scavato e a quel punto dopo la resurrezione ha cominciato a giocare a pallone tra le due squadre onestamente. Sul piano, sì, ce n'era anche una che camminava, Carlo. Io ho dato un'occhiata alle statistiche. Ieri in campo c'era un giocatore del Real Madrid con più di 4.000 minuti di stagione giocati, ce n'erano 8 nei primi 11 dell'Atletico Madrid. Sì. Diciamo la verità, anche nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari era ampiamente chiusa dal punto di vista fisico la partita. Poi dopo il pareggio, ovviamente, ha cambiato tutto. Andrea, chiedo a Nicolò Schira se è mai esistita la possibilità davvero che in caso di sconfitta Ancelotti avesse aperte le porte del Milan o no? Milan, c'erano un Florentino Perez abbastanza insoddisfatto per come la Liga, che era alla portata, era stata così gettata alle ortiche. Dopodiché poi con la vittoria della Champions e con un contratto già pluriennale e la stessa intenzione di Ancelotti di restare, il Milan è stata più una chimera che una possibilità reale. È amatissimo o no, tu che sei stato a Madrid, Andrea, Carlo Ancelotti, ma anche prima di ieri sera, perché adesso è troppo facile? Attenzione, prima di ieri sera c'erano un po' di dubbi che serpeggiavano, alimentati soprattutto dal clan di Florentino Perez, perché Florentino, che non è mai stato convinto fino in fondo di Ancelotti quest'anno, e questo è il paradosso, dopo averlo inseguito per circa 10 anni, quest'anno si è ritrovato Ancelotti in casa e lui non era soddisfattissimo di come giocava il Real Madrid, di certi atteggiamenti un po' strani in alcune partite di Liga, del fatto che ad esempio Carlo non facesse giocare molto spesso Chiaramendi, per il quale Florentino aveva speso quasi 40 milioni di euro. Quindi era un rapporto che non è mai decollato davvero, fino a ieri sera, che invece ha rappresentato la chiusura del cerchio. E al tempo stesso Ancelotti è abbastanza amato a Madrid, ma non venerato, mentre la venerazione di cui gode, e quella è assoluta, totale, si è vista ieri sera, è da parte dello spogliatoio. Vi garantisco, c'è un trasporto, un afflato dei giocatori nei confronti di Carlo che è spaventoso. E avrete visto probabilmente, chi ha guardato il web oggi, l'irruzione che hanno fatto sempre i giocatori del Real durante la conferenza stampa, hanno abbracciato, c'erano Ramos e Pepe che lo baciavano proprio sulle guance come un papà, una cosa incredibile. Sì, in fondo Ancelotti è arrivato come un pacificatore dopo i nervi tesi di Mourinho, era quello che serviva, e probabilmente è quello che alla fine ha dato al Real Madrid la possibilità di arrivare alla fine della stagione con il trofeo più atteso, con la decima, e con questa grande festa di ieri sera. Poi narrano le cronache, a settembre gli stessi giocatori erano entrati nello spogliatoio di Ancelotti dicendo: mister, così non va, ci sono problemi tattici, bisogna cambiare. La differenza forse tra Ancelotti e chi c'era prima è che Ancelotti non l'ha trasformata in una guerra partito contro partito all'interno dello spogliatoio, ha saputo essere flessibile, ma questa è la qualità numero uno dell'uomo che oggi è il primatista di vittorie in Champions League da quando la Champions League ha la nuova formula e il nuovo nome. Grazie Andrea. A voi, a presto, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino. Carlo, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, che poi, se riusciamo, proviamo a svelare uno dei segreti di Carlo Ancelotti e di questa vittoria del Real Madrid. Ci fermiamo. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Tutti convocati. 800 24 00 24, Lorenzo da Milano. Lorenzo, prego. Sì, buonasera intanto. Buonasera. Ho sentito prima il commento del dottor Genta sulla partita. Dottor Genta è tra di noi, ti sente. Prego Lorenzo. No, sono rimasto meravigliato, nel senso, ma come si può dire, Simone è stato bravo all'inizio, poi la squadra di Ancelotti praticamente è saltata fuori alla fine e non c'è stata partita. Ma eravamo al 93esimo, cioè, ma cosa aspettavano? Cioè, perché bisogna dire, a me dà l'impressione che tutta la gente voglia dire Ancelotti è per forza bravo e allora alla fine è saltata fuori la sua bravura della sua squadra. Il dottor Genta può dire quello che vuole, primo perché sì, è il padrone di casa, secondo perché ha azzeccato il pronostico 4-1, sì, io vorrei vedere fra centinaia di persone chi ieri avrebbe detto così, però lo facciamo rispondere, Lorenzo stai lì, Carlo. Ma no, Ancelotti ieri ha avuto fortuna, cioè la verità è questa, perché a un minuto e mezzo dalla fine stava perdendo la Coppa dei Campioni, che era l'unico obiettivo stagionale suo del Real Madrid, di Florentino Perez e tutti quanti. Quindi ha avuto fortuna, perché l'ha rimessa in piedi quando ha avuto questa botta di fortuna di trovare il gol alla fine. Poi per il resto, ripeto, il Real Madrid è rimasto paralizzato da questa enorme attesa, è rimasto paralizzato dal ruolo di favorito e alla fine, dopo aver visto la morte in faccia, dopo essere resuscitato, è riuscito a divagare perché ha giocatori più forti rispetto all'Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid, lo dicevi giustamente tu, è morto in campo, non aveva più energie. E quindi è andata a finire in questo modo. E alla fine è andata a finire che ha vinto chi stessa, doveva vincere da pronostico. Guarda, non è neanche difficile da leggere questa finale. Mi sembra abbastanza normale e naturale. Cioè, la partita secca è brutale, è selvaggia proprio per questo motivo. Cioè, Real Madrid l'aveva persa, l'ha rimessa in piedi e alla fine. Su questa spinta emotiva è riuscito a vincere la partita, punto. Non c'è moltissimo da dire. Sì, non c'è molto altro da dire. È sbagliato dire no. che Ancelotti l'ha dominata tatticamente. Simeone l'ha incartato e come. Poi alla fine tutto è cambiato. La chicca, Carlo, è che un pezzettino in più d'Italia in questa Coppa dei Campioni o Champions League c'è. Perché a Lisbona c'era anche Alberto Bucci, che tu conosci bene, famosissimo allenatore di pallacanestro, amico di Carlo Ancelotti. Bucci da qualche mese aiuta Ancelotti a disegnare gli schemi per i blocchi sulle situazioni da calcio piazzato. Ne aveva parlato dopo la doppietta di Sergio Ramos a Monaco contro il Bayern. Ieri sera, se Ancelotti si è salvato, carissimo Carlo, merito va anche ad Alberto Bucci. Carlo. Sì, eccomi qua. È così, ti abbiamo svelato la chicca. È una storia molto divertente, molto carina, collaterale questa. Sappiamo bene come la pallacanestro, il calcio è il calcio, ci sono delle possibilità di melting pot, questa è stata una suggestione ulteriore. Vuol dire essere anche moderni, aperti mentalmente comunque, questo è un merito di Ancelotti. Grazie Carlo. Grazie a voi, buon divertimento, ciao. Grazie a Carlo Genta, appuntamento domani a partire dalle 14.05. Io saluto uno dei pochi dirigenti che non ha confermato o ha mandato via Carlo Ancelotti nella sua carriera, Luciano Moggi, direttore, buon pomeriggio. Buonasera. No, 144 punti in due stagioni, però Ancelotti non ebbe il contratto rinnovato dalla Juve. Sì, diciamo che non fu rinnovato il contratto dalla Juve, però Ancelotti è stato aiutato dalla Juve e dal sottoscritto, perché stava per firmare per la Turchia, io l'ho fermato perché Berlusconi mi aveva chiesto le notizie di Turchia, gli avevo dato informazioni buone, tant'è che è tornato indietro e ha firmato per il Milan. E poi da lì è partito tutto. È stato fortunato ieri o no? Ancelotti. Diciamo sicuramente un po' di fortuna c'è, perché era stato dominato fino a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari. Quindi voglio dire, Può capitare, questa è una partita, nelle partite può succedere di tutto. Quando in pratica si gioca come ha giocato Simeone e la sua squadra, io credo che si debba anche meritare. Poi dopo ovviamente la classe ha fatto la differenza, perché sulla emotività del pregio portato avanti nei minuti extra time, praticamente poi dopo non c'è stata più storia, perché il Real ha vinto. Io direi però un elogio a Simeone, che ha fatto ha preso applausi anche in sala stampa Simeone, sì. Del resto se gli è meritato, ha fatto una stagione straordinaria, l'avesse coronata con la vittoria della Champions sarebbe stata storica. Luciano Moggi, che è carissimo Nicolò Schira, in tutte le librerie con Il pallone lo porto io, che è il racconto un po' della sua vita professionale, libro pieno il titolo però viene per una battuta che feci prima di una partita con la Roma, perché si lamentavano degli arbitri, e io dissi: voi portate l'arbitro, io porto il pallone. Io ho letto però il capitolo su Ancelotti, dove c'è scritto che rispetto ad altri, ad esempio Capello e Lippi, è un allenatore più molle di carattere, che ha bisogno della società intorno. Secondo me alla fine questo è quello che in realtà lo ha reso grande, anche a Madrid ad esempio, dove avevano bisogno di qualcuno più molle di carattere dopo Mourinho. È vero, io infatti apprezzo Carlo, perché è veramente un ottimo allenatore. Ha bisogno di chi gli sta vicino, ma questo non è mica un difetto, attenzione, questo può essere un pregio, perché vuol significare collaborare con la società, perché in questo momento e da tanto tempo le società di calcio sono società per azioni, alcune addirittura sono in borsa, quindi occorrono non gli allenatori soltanto, ma corrono gli allenatori che fanno azienda, e un altro di questi era Capello, quindi non è una critica, anzi è un elogio. Sì, è provare a venire dal punto di vista caratteriale. Prego, poi magari? Poi magari a Carlo ha bisogno di un sostegno della società, ma è un fatto morale che praticamente non vedo che cosa possa portare di anormale per un allenatore che sa mettere bene la squadra in campo e sa farla giocare bene. Direttore, volevo chiederle, visto che lei ha una grande esperienza con gli allenatori, ne ha scelti tanti e di vincenti, che idea si è fatto del caso Seedorf al Milan, se secondo lei merita la riconferma, ed eventualmente in caso di ribaltone su chi punterebbe per far tornare i rossoneri competitivi dopo questa annata decisamente deficitaria? Questa è una bella domanda. Sono due o tre domande. Intanto bisogna stabilire il perché Seedorf si dovrebbe andare via. Io ho letto di giocatori che se ne danno negli spogliatoi. Ma lei è mai capitato di avere giocatori che si menano in pullman, come è successo questa settimana al Milan? Pro contro Seedorf, questa qui è una cosa mai che vista. Dipende esclusivamente dalla mancanza di una società. Perché i giocatori fanno queste cose quando praticamente sanno di poterle fare. Io credo che in qualsiasi società non si verificherebbe una cosa del genere, perché altrimenti coloro che fanno apponi dovrebbero andare a casa per primi, insomma. Ma oggi che allenatore serve al Milan, al di là del nome? Si parla di allenatori stranieri, ma si sa ad esempio che storicamente a Berlusconi non piacciono e non hanno portato risultati. Inzaghi ad esempio è pronto o no per fare il salto? Io non lo so se Inzaghi sia pronto, perché se il Milan prende Seedorf e poi lo manda dopo poco tempo, e oltretutto Seedorf dobbiamo anche dire che ha fatto dei punti, perché è arrivato a ridosso quasi per qualificarsi in Europa League, da lontano che era quando è arrivato lui, quindi non si può neppure demonizzare Seedorf. Si deve dire che il Milan può giocare meglio di quello che ha fatto con Seedorf e con Allegri, e non era colpa di Allegri, era colpa della squadra fatta male, su questo non c'è dubbio. Se si pensa che De Jong era l'uomo che doveva dare là le azioni, quando De Jong è uno, sì, c'erano problemi strutturali a prescindere dal nome dell'allenatore, questo vale anche per Allegri ovviamente. Le chiedo ancora un minuto di pazienza, abbiamo le informazioni sul traffico, perché poi non possiamo non dire un paio di cose su Conte. Questo è Luciano Moggi, quello vero, non è l'imitatore della Zanzara e di Cruciani. Traffico anche Honda con Spirito Samurai, potrà lasciare un qualche segno importante al Milan? Tutti convocati. 800-24-0024, sì, c'è chi ricorda che Moggi, i tifosi della Juventus lo chiamavano maiale, ma quelle erano questioni relative a rivalità tra Roma e Juventus, poi la Juventus certamente non l'ha mandato via per quello, anzi l'ha difeso in quel momento. Luciano Moggi, ha capito che cosa è successo invece tra Conte e la Juventus? Perché al di là della, insomma, del fatto che resti Conte, è del tutto evidente che c'è un po' di... Non lo so, a me la Juve sembra un po' arrabbiata per come è stata gestita tutta questa vicenda. Sì. Allora, prima partiamo da Carlo Ancelotti. Dipende più da alcune dichiarazioni che fece Carlo quando era a Parma, non da Roma. Mi disse del... che avevo preso un maiale, io dissi: ho preso un maiale, sarà l'allenatore della Juventus, quindi mi dovrete sopportare, dovete sopportarlo perché è una persona seria, è un allenatore bravo. Questo è Carlo Ancelotti. Per quanto riguarda Conte non è successo proprio niente, forse Conte faceva bene a non esprimere le sue sensazioni sulla squadra futura in pubblico. A lei sarebbe piaciuto un allenatore che dichiara con 10 euro non si può mangiare in un ristorante da 100? Non è che la Juventus non ha speso in questi anni? No, no, ma infatti dopo che sono per 12 anni non ha speso niente, dopo 12 anni di nostra permanenza hanno speso quasi 500 milioni, quindi voglio dire di spese ne hanno fatte. Sì, quella battuta poteva risparmiarsela Conte. Poteva risparmiarsela, e infatti la Juventus se l'è presa per queste cose qua, però in funzione di un contratto, quindi non è successo proprio niente, perché io avrete notato che sul Libero ho scritto un mese prima che Conte sarebbe stato allenatore della Juventus ancora per il prossimo anno. Anche in mancanza di alternative, direttore, visto che insomma Conte... All'estero. Comunque non ha avuto richieste come si auspicava dopo i tre scudetti. Sì, ma non è proprio per l'alternativa, perché Conte è, intanto il presidente Andrea Agnelli è uno che desiderava Conte più di ogni altro ancora la guida della Juve. D'altra parte qui il problema, cioè, è un problema duplice. Allora, le dichiarazioni di Conte hanno portato diciamo un qualcosa che potrebbe significare, se la Juve non va bene, potrebbe significare che può dire ve l'avevo detto. L'altra cosa però, chi corre pericoli seri è Conte, se non si ripete all'altezza della situazione. Quindi, voglio dire, un matrimonio che doveva andare avanti è andato, ma nessuno, al di là di chi diceva poteva venire Mialovic, poteva venire qualsiasi altro allenatore, ed erano in diversi i nominativi che facevano, la realtà non c'è mai stato nessun interessamento per altri, il Conte è sempre stato in carica, così come quando ha vinto il campionato. Lei è d'accordo, direttore, lei è d'accordo con Conte che questa rosa comunque dopo tre anni che è stata spremuta al massimo debba essere, non dico rivoluzionata, ma sicuramente modificata in 7-8 elementi, mentre la società non vorrebbe cambiare due o tre tasselli, non di più? Io sono perfettamente d'accordo su questo fatto, però devo dire che è vero che i giocatori sono spremuti la maggior parte, poi è anche vero che la carta d'identità non è quella giusta, anche perché parliamo di 35 anni per Pirlo, di 36 per Buffon, che sono i cardini di questa squadra. Quindi voglio dire, che ci sia qualcosa da rivedere è giusto, ma che sia difficile portare avanti una politica che possa permettere alla Juve di andare in campo internazionale a vincere, questa è una cosa problematica, perché se vi ricordate, quando io ho venduto Zidane, presi praticamente... Sì, rifece praticamente l'intera squadra, Nedved, Buffon, Thuram. Ma infatti ho venduto dei giocatori buoni per prendere dei giocatori migliori, attenzione. Cioè, diciamo la verità, se arrivasse l'offerta da 70 per Pogba, andrebbe venduto, ma in quest'ottica... Ma chi lo paga Pogba? Nessuno, 70, 70 veri, 70 veri li vende anche Marotta, non c'è bisogno di tornare indietro nel tempo. Le faccio faccio un'ultima domanda, direttore, ed è questa. Conte, Mazzarri, non è pericoloso tenere allenatori in scadenza in club che comunque hanno l'ambizione a fare delle stagioni di vertice? Dovrebbe essere uno stimolo questo per gli allenatori, per far bene. Le società magari mettono anche in conto questo fatto, non rinnovando il contratto, facendo andare in scadenza, non è una previsione per chi allena a continuare ad allenare. Devono far bene. Io credo che sia la cosa migliore, anche perché fare i contratti per troppi anni non è mai bello. Voi avete mai visto, anzi avrete visto spesso, che allenatori con contratti di 2 o 3 anni, il caso per esempio di Seedorf, se va via. Sì, no? Ha preso 2 anni e mezzo di contratto, adesso appunto. Il Milan ha la difficoltà a gestire i 2 anni che restano, tra l'altro a cifre abbastanza alte. È un errore fare il contratto pluriennale a un allenatore, potrebbe essere un anno con l'opzione per il secondo, però io per esempio io pluriennali non li ho mai fatti. Grazie direttore. Immagini, grazie a voi, arrivederci. Grazie a Luciano Moggi. Sì, tra l'altro voci dicono che alla fine Seedorf potrebbe restare a busta paga del Milan, con la scommessa del Milan che a medio termine, qualche mese, possa avere un'offerta, possa in qualche modo essere lui a chiedere di liberarsi, anche perché sicuramente però non c'è futuro sulla panchina al momento, insomma la spaccatura è abbastanza netta. C'è da dire anche che però Seedorf e il suo entourage non intendono rescindere e hanno anche rifiutato le proposte di buona uscita intorno ai 3,5 milioni, quindi diventa anche difficile poi la convivenza, e al momento non ci sono offerte per Seedorf. Potrebbero arrivare, ma è tutto da verificare. Sì, oggi si è fatto il nome per il Milan anche di Jorge Jesus, in uscita dal Benfica, c'è quello di Emery, c'è Inzaghi, c'è sempre Donadoni, c'è la realtà che bisogna aspettare questa sera la fine delle elezioni europee, poi Berlusconi da settimana prossima metterà la testa di nuovo sul Milan. Mentre credo sia un po' più complicato il riscatto di Tarabt da ieri, sempre restando al Milan. Sì, c'è stata la promozione in Premier League del QPR, che non intende fare sconti, a differenza del Valencia che sta invece trattando a 4,5 milioni rispetto ai 7 previsti per Rami. Per Tarabt il QPR vuole 7 milioni, il Milan vorrebbe uno sconto, vorrebbe non spenderne più di 5. Bisogna vedere se adesso Kiaj Arabchan riuscirà a mediare o se invece il QPR rimarrà delle proprie posizioni e cederà l'attaccante a un altro club, visto che comunque in Premier League il Manchester United e il Liverpool più di un sondaggio l'hanno effettuato. Sì, sensazione personale che difficilmente il Milan con lo sconto riesca ad ottenerli tutti e due. C'è poi da scegliere, perché il Milan ha la possibilità o di tenere il difensore che si è rivelato Rami o di tenere Tarabt, però credo da una delle due parti dovrà spendere. E poi comunque dopo il mondiale si aprirà anche la vicenda di Balotelli, perché il Milan dovrà sicuramente cedere, e gli amici che fanno mercato dicono che Mino Raiola ha avuto il mandato comunque a esplorare, a capire se esiste qualche offerta. Allora noi ci fermiamo qui, sta per arrivare Pierluigi Pardo, abbiamo ancora tante cose da dire, abbiamo da parlare della nazionale, del Giro d'Italia, ancora del calciomercato. Partiamo però dalla pagina delle quote. Quote e pronostici. Questa sera alle 20.30 scende in campo la Serie B per la 41esima giornata, la penultima di regular season. L'Empoli sogna la promozione diretta, per farlo però i ragazzi di Mister Sarri devono vincere in trasferta sul campo della Cittadella. E allora vediamo le quote SNAI per questa partita. L'1 è quotato 4.25, l'X è a 2.05, il 2 con la vittoria dell'Empoli che varrebbe la promozione diretta in Serie A per i toscani è quotata a 2.45. Ci sono tante altre gare chiave, soprattutto per la zona playoff. La più importante è certamente quella della Dino Manuzzi di Cesena tra il Cesena e il Latina, vale a dire la terza contro la quarta forza del campionato. L'1, la vittoria del Cesena, è quotata a 2.25, l'X è a 2.90, il 2 è quotato invece 3.60. In campo anche Spezia e Bari, si gioca in Liguria. L'1 è quotato 2.65, l'X è a 3, il 2 con il sogno del Bari che si chiama playoff è quotato 2.85. Questa era l'ultima delle quote di oggi, ci risentiamo domani. Ragazzi, sto arrivando, fra poco, 800240024, continuiamo, tutti convocati, weekend, fra poco. Tutti convocati. 800 24 00 24, è con noi Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Benissimo, come va? Anche se io non so se hai sentito la prima ora, abbiamo dovuto celebrare il dottor Genta per il suo 4-1. Sì, pronostico. Dottor Genta aveva detto 4-1 o 3-0. 4-1. No, aveva detto 4-1, aveva detto 4-1 e coppa ad Ancelotti. Sì, diciamo. Cosa vuoi dirgli? Inattaccabile. No, no, che secondo me il senso l'avevo preso più io. No, il senso l'avevo preso io, che avevo detto il bollettino lo fa e poi stende ragnatele. Mi sono mancati 150 secondi. Il senso l'aveva preso Cruciani, che aveva parlato di Godin. Nessun altro l'aveva l'aveva nominato. Questo è clamoroso. Però Cruciani aveva detto anche 3-0 Real. Sì, lui aveva fatto il doppio. Il signor Cruciani aveva detto tutto il contrario di tutto. No, insomma. Però ti lascio l'eredità a Carlo Genta, che da ieri sera viaggia sulle ali dell'entusiasmo, no, di questo pronostico azzeccatissimo. Immagino, però dobbiamo dire che un 4-1, che più io avevo detto 2-1 Real, insomma il senso l'avevo beccato, no. Sì, l'avevi, o forse non l'aveva beccato nessuno, però ti faccio sentire che è una cosa che siccome non ha sentito nessuno, ed invece è molto bella, registrata questa notte alle 3.30 all'aeroporto di Barajas, Madrid. Come sono stati accolti i giocatori dell'Atletico Madrid? Meraviglioso, Pierre, meraviglioso. 3.30 di mattina, hai appena perso la Coppa dei Campioni come l'hai persa. Guarda, ci siamo tutti un po' innamorati, penso, insomma, interpretare un sentimento comune. Io sono sinceramente felice della vittoria di Ancelotti, perché lo dicevo anche l'altro giorno, sono contento per lui essenzialmente, e poi perché l'Atletico Madrid ha vinto il campionato. Se non avesse vinto nulla mi sarebbe veramente dispiaciuto, cioè se una stagione del genere chiuderla senza titoli sarebbe stato veramente beffardo. Ha vinto il campionato ed è una grande impresa, e a questo punto sono solo contento per Carlo, perché credo che veramente sia l'ennesima pagina meravigliosa della vita di un uomo meraviglioso, proprio qui rappresento l'omosessualità. Detto questo, i tifosi dell'Atletico hanno fatto innamorare mezza Europa, sono stati meravigliosi. Io ho commentato Atletico Madrid-Barcellona ed è uno dei ricordi più belli della stagione. La partita, l'Atletico ha giocato un grande calcio, i tifosi sono stati fantastici ovunque, e poi c'è chiaramente questa simpatia per chi ha meno, no? Poi chiaramente sono ricchi anche loro, ma paragonati a Real Madrid, Barcellona o Paris Saint Germain e Manchester City, è una società che ha un budget quasi ridicolo. Sì, la partita del fatturato era finita prima di cominciare, poi fortunatamente a pallone si gioca 11 contro 11, 11 contro 10, perché poi in realtà Simeone ieri con Diego Costa ha fatto un bel pasticcio e probabilmente non si è giocato al meglio le sue carte, anche se io dico, Pier, che quando un allenatore è così empatico con il suo spogliatoio e su quello ha creato tutta una stagione straordinaria come quella dell'Atletico Madrid, diventa difficile se il tuo numero uno ti dice: mister, io ci sono, gioco, voglio giocare, tenerlo fuori. Facile dirlo col senno di poi, ma probabilmente in tanti avrebbero fatto la stessa scelta. No, io lo dico col senno di poi, nel senso col senno di poi di chi riconosce che è un errore, ma lo capisco, lo accetto, e francamente ieri sera ho sentito delle critiche molto ingenerose. È chiaro che nel gioco il bilancino, insomma, una sostituzione, buttare via una sostituzione è qualcosa che pesa, no? Che può pesare, che forse ha pesato poi alla fine nella condizione atletica. Se avesse avuto un cambio alla fine dopo il gol dell'1-1 nel supplementare, l'Atletico Madrid probabilmente sì, non sarebbe dentro. Schiantato così come è schiantato, però, in quell'ultima però non mezz'ora. Non dimentichiamoci chi è Diego Costa, non dimentichiamoci che tipo di provino c'era stato il giorno prima. E io mi ricordo una frase di Ancelotti prima della dopo la finale contro il Liverpool del 2007, a un certo punto non mi ricordo se era Maldini il giocatore, ma insomma, cioè lui dice comunque che ci sono dei giocatori che devono giocare sempre e comunque, anche se non sono mi ricordo, e mi disse: chi glielo dice a Tizio che sta fuori? Lo dici tu? Chi glielo dice a Diego Costa che non gioca? Diego Costa, che tra l'altro ha anche rischiato, perché poi oggi Del Bosque ha detto che lui il 2 giugno porterà in Brasile soltanto giocatori in grado di giocare al 100%. Secondo me non è del tutto scontato che Diego Costa lo sia. perché comunque il suo è un infortunio muscolare serio ed evidentemente in questa settimana non l'ha curato con la prospettiva del mondiale, e questo potrebbe anche aver allungato magari i tempi di rientro. Chiedo poi a Nicolò Schira se Simeone, non dico l'anno prossimo, si muove o no, ma insomma se è o no sui radar di grandi società. Aveva avuto la proposta importante dal Monaco ma ha detto di no, preferisce restare all'Atletico, magari non quest'anno ma fra un anno si potrebbe muovere. È chiaro che tanti talenti dei colchoneros andranno via, primo fra tutti Diego Costa che è già stato prenotato dal Chelsea, ma occhio anche a Mario Suarez, a Felipe Luis che hanno diverse richieste. Sì, diciamo la verità, quella dell'Atletico Madrid è una meravigliosa storia, Pier, che credo si sia chiusa ieri sera, almeno a livello di ciclo, se intendiamo, con la possibilità di proseguire. C'è Antonello da Parma, c'è però anche il traffico. Che non salta, che non salta, che non salta. Rosso nero, che non salta, rosso nero, Tutti convocati. Antonello da Parma. Antonello, buonasera. Sei pronto? Buonasera. Prego. No, volevo solo dire una cosa, grazie per la convocazione. Dunque, prima avevo sentito il signor Moggi parlare per radio. Sì. Sì, no, beh, praticamente volevo dire che secondo me, io da quello che mi ricordo, è stato il signor Moggi a mandare via come si chiama, Ancelotti Juve. Sì, dopo due stagioni non gli ha rinnovato il contratto. Sì, volandolo come perdente, perché sì, poi dopo c'è anche si diceva quest'inverno dell'Inter, la situazione ambientale, anche i tifosi, perché il mancato passaggio di Guarin per situazione ambientale, però comunque anche la Juve subito è una situazione ambientale perché i tifosi non lo volevano, non lo volevano, però l'ha tenuto, poi dopo due anni senza vittorie l'ha mandato via, 144 punti in due stagioni. Però Pier, se ti ricordi, la carriera di Ancelotti è cambiata la notte di Manchester, lui è entrato in quella finale da perdente, è uscito e poi da lì ha costruito una carriera meravigliosa. Sì, però insomma stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più Champions League nella storia, Sam Paisley, l'unico che di quelli che hanno vinto tre che le ha vinte con due club diversi. È un allenatore con una percentuale di successo elevatissima, un uomo che si fa amare dai suoi giocatori, e questa è una chiave secondo me decisiva del suo successo. Insomma, ci sono stati dei momenti fortunati sicuramente nella sua carriera, se per fortuna si intende appunto trovare il gol dell'1-1 al 120esimo oppure vincere una finale ai rigori, ci sono stati però anche altrettante sfortune. Insomma, la Juve ha perso, la sua esperienza alla Juve si è stata condizionata da degli episodi incredibili, insomma la pioggia di Perugia è comunque, per carità, poteva perderlo, sì, qualcosa di irripetibile, anche c'era stato il gol di Cannavaro la giornata prima, no? Poteva perderlo il campionato, però comunque insomma alla fine l'ha perso buttando via una serie di punti di vantaggio abbastanza clamorosa nelle ultime giornate. Insomma, è un allenatore secondo me di tondo e compiuto, Sì, ma è bello anche di raccontare le storie. Quella di Ancelotti è una carriera che ha tanti bivi, è stata capace di prendere la strada giusta che poi l'ha portata ad arrivare a questo che è un successo straordinario, incredibile secondo me nella capacità di incassare in certi momenti, nei momenti difficili, nella pazienza, nella calma. Io questa cosa di Ancelotti ce l'ho presentissima davanti, e in qualche modo non ti dico che anche delle volte è utile nella mia vita, perché adesso esageriamo, però insomma se io penso a lui penso veramente a un uomo che tante volte si è trovato in delle situazioni di grandissimo stress e con una morbidezza, una tenerezza, ma al tempo stesso anche con una chiarezza di idee molto, molto profonda, ha navigato in questi mari complicati. La vittoria del 2007 della Champions League secondo me è l'esempio più clamoroso, perché lui aveva vissuto la stagione praticamente sottoterra, no? Con una squadra che andava male, con mille critiche, con dei dirigenti che erano piuttosto severi. Allo stesso modo non credo che quest'anno a Madrid sia stato tutto facile, sinceramente. o anche al Chelsea era stato, sì, pure è stato capace di non andare a fondo, di non galleggiare. L'abbiamo detto prima, Pier, tu non c'eri, di non trasformare anche quelle criticità d'autunno in una guerra magari uno contro tutti o per fazioni o per bande in uno spogliatoio. Direi quasi il profilo dell'allenatore ideale per una nazionale, se non fosse che la nostra nazionale allenatore ce l'ha già. Saluto Marco Ansaldo, inviato della Stampa a Coverciano, credo, giusto? Sei sulla strada di ritorno anche tu? Ritorno in ritiro. Causa aerei ritiri, sono ancora a Lisbona, ma comunque tanto a Coverciano non c'è nessuno in questo momento, quindi non ci sono nemmeno io. Si apre però una settimana importante, Marco. Beh sì, certo, è l'ultima settimana prima della scelta dei 23, e quindi è la settimana in cui Prandelli deve sciogliere le ultime riserve, anche se mi sembra che Prandelli queste riserve poi le alimenti spesso, cioè ha partito con delle certezze e poi anche un po' costretto da quello che si è visto nel campionato ha dovuto cambiare idea su alcuni uomini, eliminarne alcuni e accettarne altri, quindi adesso arriverà il momento decisivo, si prenderà fino al 2 fino all'ultimissimo momento per decidere. Del resto ho visto che anche la Spagna ha fatto la stessa cosa, dovevano oggi dare l'elenco dei 23, invece Del Bosque ha detto che aspetta perché sì, ha dato solo l'elenco per l'amichevole con la Bolivia, poi però esatto. Ha precisato che chi è fuori da quell'elenco non è fuori dalla lista dei 23 del mondiale. Lo chiedo a tutti e due, possiamo mettere come punto fisso che 19-20 uomini sono certi sui 23 per Prandelli, Pier? Sì, io da questo punto di vista Ansaldo ne sa sicuramente più di me, io leggo i giornali e posso avere delle mie convinzioni, mi sembra di sì, mi sembra che ci sia non ci siano ballottaggi fra i portieri, ci siano un paio di posti a disposizione dietro, forse un centrocampista e forse un attaccante, questa è la sensazione che ho io, quindi insomma un ballottaggio a tre fra Destro, Insigne e... ce la posso fare. Pepito Rossi, te lo dico io. Te lo dico io. Però non so, ma Marco, ma è davvero questo il nodo Destro Rossi, poi più che Insigne? Ma non lo so, perché sono delle cose strane. Quando dicevo degli uomini che poi sono stati riaccolti, eccetera, uno è, Pier lo sa bene, Cassano, cioè fino a 3 mesi fa Prandelli non voleva nemmeno vederlo in fotografia, Cassano, adesso mi sembra che è intoccabile, venga inserito come intoccabile, non capisco onestamente perché quando uno dice che bisogna portare, l'ha detto ancora recentemente all'inizio della preparazione, bisogna portare degli atleti a giocare in Brasile. Secondo me Cassano ha un profilo diverso. Io ho una mia idea, cioè che Prandelli ha smesso di fidarsi completamente di Balotelli, quindi ha avuto bisogno di un'alternativa tattica e quindi a quel punto anche tante certezze sono cambiate. Non credo che Cassano sia l'alternativa tattica a Balotelli, onestamente, se ti porti 200 avanti come Immobile destro, l'alternativa già Pier. È fatta. No, io penso che assolutamente dal punto di vista tattico Cassano non è un'alternativa a Balotelli. Io credo che sia arrivato un momento che secondo me poi si è espresso con chiarezza in questa primavera, nel quale Prandelli ha capito che questa squadra non gli bastava più e allora ha cominciato a in qualche modo a ripensare ad alcune sue scelte, e quella di Cassano secondo me è la più clamorosa. Io non nascondo, sono d'accordissimo con quello che dice Marco, cioè ma che è la stessa cosa che pensava anche Cassano, cioè non erano delle scaramanzie. Cassano a gennaio, ancora a febbraio di quest'anno, pensava di avere lo 0% di possibilità. Sì, si era tolto dalla testa al mondiale. Poi evidentemente a Prandelli sono arrivate delle redazioni talmente positive che hanno riaperto questa strada, però sinceramente questa strada secondo me non si sarebbe mai riaperta se dopo quell'amichevole contro la Spagna, secondo me Prandelli non si fosse reso conto che a poco dal mondiale la squadra era in difficoltà e che quindi c'era bisogno di qualche effetto speciale, e da questo punto di vista insomma Cassano con tutti i suoi limiti di effetti speciali li può dare, perché è il miglior assist del campionato assieme a Totti, quindi credo che che insomma la scelta sia stata questa. Poi in assoluto c'è chiaramente il dilemma di Pepito, che è uno che se sta bene titolare fisso. Io credo sarebbe da portare a prescindere, anche se non sta benissimo e certamente non starà benissimo. Però poi la quantità di scommesse diventa enorme, perché Cassano... Sì, ma tra portare magari un centrocampista in più che va in Brasile a fare il turista, come è capitato anche in Ucraina, Marco, con tre o quattro elementi della rosa, Pepito Rossi magari ti può dare quei 20 minuti, quella mezz'ora che ti risolve una partita. Scusami se faccio questa osservazione. Io continuo a sentire colleghi che dicono no, Cassano viene perché comunque nell'ultima mezz'ora, Pepito viene per l'ultima mezz'ora. Guarda che è importante non chi viene nell'ultima mezz'ora, l'importante è che vince la partita, perché quando arrivi all'ultima mezz'ora devi buttare dentro uno, vuol dire che le cose già stanno male. Quindi devi portare 23 uomini che ti servono dal primo minuto con l'idea di farli giocare 90 minuti. Poi nell'ultima mezz'ora si vede. Ma questa è la cosa fondamentale, questo non è un mondiale qualsiasi, un mondiale di 20 più 3, è un mondiale di 23 uomini di cui tu puoi avere bisogno, di cui dal primo minuto, che ti devono saper leggere 90 minuti. Allora, secondo me o Cassano o Rossi. Io porterei Rossi, anche perché devo dire che Cassano, da quello che mi risulta, continua a essere un giocatore inviso al 90% degli azzurri, e questo può creare oltretutto dei problemi, a parte il fatto che io e Pier, che è un carissimo amico, da su Cassano penso che la vediamo in maniera diametralmente opposta. Cioè, per me Cassano in questi anni non è mai stato un fenomeno, se no avrebbe fatto un'altra carriera rispetto a quella che ha fatto, è andato in grandi club e alla fine è sempre andato via molto in fretta. Quindi secondo me poi quel di più che da Cassano non so ancora francamente quale sia, mentre invece Rossi non è solo il fatto del bravo ragazzo, è uno che sa fare gruppo, è uno che ha anche delle intuizioni. Se dovessi scegliere tra i due porterei Rossi, tutte e due insieme comunque assolutamente no, cioè, non possiamo pensare di e a quel punto dando per scontato, per quello che ci è parso di capire anche dalle parole di Castellacci, che comunque ha parlato molto bene delle condizioni fisiche di Cassano, quindi dando Cassano sulla scaletta di quell'aereo, resta sempre quel ballottaggio tra Destro e Rossi, e resta che tra una settimana saremo qui a parlare di Italia-Irlanda e probabilmente a capire in che modo possa essere stata decisiva per le scelte di Prandelli. Grazie Marco. Ciao. Figurati, ciao. Grazie Marco Ansaldo. A proposito di Destro, Nicolò, io ho letto di uno scambio con l'Inter per Guarin, o comunque dell'ipotesi di un ritorno, che ritengo opzione fantascientifica. Sì, anche se il suo agente Claudio Vigorelli si sta muovendo per tentare di spostarlo, aveva avuto dei contatti col Wolfsburg, chiaramente però non è una destinazione gradita al giocatore. C'era stato un approccio da parte dell'Arsenal un mese fa, che aveva fatto un sondaggio, sicuramente un elemento importante. Sappiamo che la Roma, di fronte a offerte cospicue anche in passato, ha venduto dei giocatori e ha messo a segno delle plusvalenze straordinarie, quindi un club che si presentasse con 30 milioni ingolosirebbe Sabatini. Sì, però non credo che nessuno arrivi con 30 milioni per Destro, è tutto da discutere se arrivi qualcuno per Benatia. Però bell'ambientino quello di Roma, Pier. Da quando è stato concesso l'aumento a Pjanic ho l'impressione che la situazione sia in parte sfuggita di mano a Sabatini. Sì, ma guarda che poi alla fine il banco di prova è adesso, perché adesso si vede la forza della società. A me sembra, da quello che ho letto oggi sui giornali, che comunque è arrivata una risposta nei confronti di Benatia e delle sue dichiarazioni a margine della partita della nazionale. Benatia ha un contratto fino al 2018, quindi sono convintissimo che la Roma, in caso di grandissima offerta, lo cederebbe, ma siccome questa offerta non mi risulta sia ancora arrivata, io penso, non lo so, a me sembra una normale schermaglia, sì, tra normale un giocatore che giustamente ha voglia di monetizzare una grande stagione. Che sì, però anche con un contratto di 4 anni ancora, va bene la voglia di monetizzare, però Pier, secondo me a fine maggio dire non c'è l'intesa o delle offerte eccetera, sta tanto di rottura. No, ma è stato veramente poco elegante, carino, bene, poco fair. Dubbi. No, è stato poco elegante, però insomma... chi conosce il mercato sa che poi certe situazioni si risolvono in 10 minuti, se ci sono le condizioni per risolverle. A me sembra che la Roma sia una società con le spalle larghe, mi sembra che sia una squadra che in questo momento è nelle condizioni di poter dire a Benatia: hai un contratto fino al 2018, che vuoi, al di là di un aumento che sicuramente la Roma aveva già pensato di dargli. questo non ci sono grandi dubbi. E basta, poi il resto si vedrà, insomma. È ovvio che se arrivano 30 milioni per Benatia, il giocatore viene portato via in grandissima serenità. È stato questo proprio il marchio di fabbrica della campagna acquisti della Roma l'anno scorso, no? Cedere i giocatori come Marquinhos, come Lamela, come Osvaldo e riuscire con quei soldi a comprare molto meglio. Da questo punto di vista Sabatini è un mago da questo punto di vista. Punto è chiaro che il giochetto diventa sempre più difficile. E bisogna anche vedere se Rudy Garcia è d'accordo, perché mi pareva appunto che avesse delle idee abbastanza chiare sulla consistenza della rosa della Roma dell'anno prossimo. Per me Benatia rimane alla Roma, se devo dirti un pronostico. Sì, anche perché Nicolò mi pare di aver letto che gli spagnoli parlano di Marquinhos per il Barcellona. Sì, che era anche forse... Luis Enrique aveva comunque plasmato i tempi della Roma e sono pronti a investire 35 milioni. Dunque il Barcellona non sarebbe su Benatia. C'è il Manchester City però, che ha avuto dei contatti con il suo agente, propone 4 milioni netti a stagione per 5 anni. È chiaro che la Roma darebbe un ritocco da 1,8 a 2,5, però se si presentano con 4 milioni i giocatori poi sono abbastanza volubili in tal senso, anche, la stessa cosa. Anche se si presentano, con 30 milioni, perché il Manchester City lo sappiamo, è una di quelle società come il Paris Saint-Germain e poche altre che sono anche prontissime a drogare il mercato. E quindi, sì, dovrebbero anche limitarsi visto che sono sotto sanzione, ma questo è tutto un altro capitolo. Beato chi ha dei giocatori che piacciono a questi club. Sì, sì. Tu hai qualcuno? Hai qualcuno? Chi possiamo dare noi al Paris Saint-Germain? Non il dottor Genta, dopo ieri. Assolutamente. Ci fermiamo, Pier, stai lì un minuto e torniamo. Non so se avete visto meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Convocati. Oh, carissimo Pier, c'è ovviamente chi scrive Cassano in nazionale perché il figlio di Prandelli lavora al Parma, oppure lasceremmo a casa Balotelli perché non è continuo, ancora preferirei che restasse a casa Balotelli, basta con le balotellate, le cassanate, eccetera eccetera eccetera, tutto territorio ampiamente battuto. Beh, è possibile una cosa sola, sì. Sul fatto che il figlio di Prandelli lavori al Parma è vero. Credo che questo... Sì, però che possa essere legato alla convocazione. Diciamo che non è una raccomandazione, semmai può essere stato un altro paio di occhi sulla stagione del Parma che possono aver dato conferme sulla tenuta psicologica e sul ruolo, soprattutto che fisica, in questa stagione a Parma, insomma, tutto qui. Non, certamente. Anche perché, insomma... Noi non siamo tenerissimi con Prandelli, voglio dire, chi ci ascolta lo sa, le questioni del codice etico e tante altre cose, però insomma questa sarebbe... No, ma lui, guarda, possibile, però sulla questione Cassano, la sua logica c'è, la logica è stata quella di provare altre strade, cercare altre strade, batterle profondamente e poi quando si è reso conto che evidentemente quello che aveva non gli bastava e che Cassano di contro aveva fatto una stagione tale da potersi meritare... tante volte Prandelli durante l'anno sembravano parole di circostanza, sinceramente sembravano una scusa, ma tante volte sulla domanda Cassano dicevano: io Cassano lo conosco, sto provando altre strade e basta. Sì, non ho bisogno di chiamarlo, poi vedremo quando mancheranno un paio di mesi al mondiale, che poi è quello che è successo. Cambiamo leggermente argomento, Pier, saluto Fabrizio Biasin, collega di Libero. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora ti leggo che cosa ha detto pochi minuti fa Massimo Moratti, che oggi è su tutti i giornali per il casino di quella frase ieri sul fatto che non ama tantissimo Toir quando parla di Inter da risanare, perché ieri Moratti si era un po' arrabbiato, ha detto: noi abbiamo sempre pagato tutto, stipendi, debiti, giocatori, quindi non c'è proprio niente da risanare. Oggi Moratti ha fatto mezzo passo indietro, Fabrizio, ha detto: credo che Toir e il suo gruppo abbiano le qualità per fare bene, l'ho sentito stamattina, ma di quanto detto ieri non abbiamo nemmeno accennato, ci sono ben altri problemi da affrontare, poi c'è simpatia, stima e amicizia, tornare io proprietario dell'Inter meglio di no, perché se così fosse sarebbe il segnale che è un casino. Questo Moratti oggi, Fabrizio, ho l'impressione che magari non un casino intero ma mezzo sì, perché comunque evidentemente le parole di ieri di Moratti hanno riportato a galla, oggi la Gazzetta titola il malessere di Moratti, c'è qualcosa che evidentemente non è ancora del tutto sistemato come equilibrio nell'Inter. Guarda, è un Moratti un po', perdonatemi, ma è un po' pasticcione, è un Moratti che non riesce a allontanarsi dalla sua creatura, dall'Inter, e in questo modo non fa il bene dell'Inter, bisogna dirlo, perché ieri ha detto delle cose magari anche sacrosante dal suo punto di vista, è vero che Moratti a fine stagione ha sempre firmato l'assegno, ha sempre messo a posto i conti, però è anche vero che ha lasciato l'Inter in una situazione complicata, perché dopo il famoso triplete non si è pensato di far rendere le tre vittorie, ma si è pensato di più al campo. Questa cosa ha portato l'Inter a non ottimizzare dal punto di vista economico e ad avere un sacco di problemi, per cui è vero che l'Inter ha un sacco di problemi di carattere economico, è anche vero che Moratti ha sempre messo a posto le cose, ma è anche vero che Moratti non deve prendere parola e dire quello che ha detto ieri, perché non fa il bene dell'Inter. Da questo punto di vista Moratti oggi si è corretto, ma secondo me ieri ha fatto un piccolo grande errore. Sì, gli è un po' scivolata la frizione, Pier. Detto questo, resta l'Inter dove c'è un allenatore confermato, ma che evidentemente non è in cima ai desideri del nuovo proprietario. C'è un ex proprietario, socio di minoranza, ma nemmeno troppo, perché il 30% non è poco per essere un socio di minoranza in un club calcistico che non è del tutto d'accordo con le strategie. Ad esempio, credo non sia sfuggito come il fatto che non è stato rinnovato il contratto a Cambiasso sia stato trattato sia da Mazzarri che da Moratti con la seconda persona plurale, hanno deciso, terza persona plurale, loro hanno deciso, non hanno rinnovato e così via. Credo che urga un po' di dibattito interno prima di iniziare prossima stagione, Pier. Sì, o più dibattito interno o più invece autoritarismo, nel senso che comunque a me sembra, quello che è successo nelle ultime ore mi sembra assurdo, cioè un sito internet di una società di calcio che ospita le dichiarazioni di un presidente onorario, comunque con una quota di minoranza, che in qualche modo critica, per carità, con l'eleganza propria di Moratti, che certamente bisogna riconoscergli sempre, però comunque di fatto critica il presidente operativo. Sì, il proprietario del club, il proprietario del club, neanche il presidente operativo. Siamo alla follia, ecco, e quindi sono d'accordissimo su quello che è stato appena detto, su una visione quasi psicanalitica di un Moratti che non riesce a liberarsi del suo amore più grande. E che sta lì, insomma, e giudica quasi, non si capisce bene, un po' come delle volte è successo nella storia della Repubblica, no? Che c'erano dei ministri che manifestavano contro il governo, sono casi limite, ecco, mi sembra un po' questa situazione qui, cioè comunque Moratti è l'Inter, è la società, quindi può dire quello che vuole e fa benissimo a dare il suo contributo e parlare con Toir e far sentire la sua voce e farla pesare, ma all'esterno deve invece avere un atteggiamento di unità totale con Toir, altrimenti sono guai per l'Inter, questa è la mia sensazione. Fabrizio, invece tu che conosci dentro l'ambiente Inter, che giudizio è stato dato della lettura che ha dato Mazzarri di questa stagione? Ma guarda, io non so precisamente cosa abbiano pensato all'interno della società, ti posso dire quello che pensano leggermente fuori la società, cioè quello che pensano i tifosi. I tifosi pensano che Mazzarri si era autocreato un'occasione per darsi un'altra occasione e l'ha sprecata totalmente, perché invece di fare un passo indietro o comunque un passo incontro ai tifosi, invece di ammettere qualche colpa, ha fatto professione di sé, autoelogiandosi, autoincensandosi, facendo anche degli scivoloni, io credo grotteschi, quando parla di calci d'angolo e quant'altro, e credo che non abbia fatto il suo bene, perché si sta creando una situazione molto simile a quella dell'anno scorso al Milan con Allegri, cioè con un presidente che forse in questo caso non andrebbe avanti col suo allenatore, lo tiene per questioni mere legate all'ingaggio. E in più rispetto al Milan di Allegri, la differenza è che i tifosi non hanno tutto l'appoggio che poteva avere Allegri con il Milan. Quindi io credo che si stia creando una situazione molto molto complicata, per cui basta un piccolo inciampo all'inizio della prossima stagione per creare la confusione totale. Sappiamo bene in più che Mazzarri non ha il carattere migliore del mondo. Io credo che non siano i presupposti migliori per iniziare la prossima stagione. Sì, tutto poi alla vigilia di una sessione di mercato che sarà complicatissima, nella quale, diciamo la verità, Nicolò, o l'Inter riuscirà a vendere i due che ha in mente di vendere nelle prossime 3-4 settimane, oppure poi ad agosto può succedere di tutto. Beh, chiaramente, anche perché la situazione sia di Guarin che di Ricky Alvarez è abbastanza intricata e complicata, si cerca magari anche di usarli come pedine di scambio in modo da poter arrivare ad altri obiettivi. Ranocchia è comunque un rebus, rinnovo perché no. E l'Inter vorrebbe rinnovare, a questo punto vorrebbe addirittura investirlo come capitano. E lui vuole andare alla Juve tra un anno. Il suo agente Tullio Tinti ha parlato con la Juve. Quindi è promesso alla Juventus, è per questo Conte che non arriva comunque questa l'ha lanciato firma. A Bari, il pressing è forte. Fabrizio, ti saluto, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao ragazzi. Grazie a Fabrizio Biasin. Piera, abbiamo il traffico, c'è Luca da Ravenna, ci fermiamo e arriviamo subito. Tutti convocati. A proposito di Inter, c'è questa idea di Berami, che oggi ha parlato, ha detto che amerebbe vivere vicino ad Appiano Gentile, perché già lì, insomma, lui è svizzero, non è poi tanto lontano. Poi spesso comunque si è sempre recato insieme alla compagna Elena Bonzagni a Milano, sicuramente un giocatore che vorrebbe vestire nerazzurra, un pupillo di Mazzarri, fra l'altro il Napoli lo vuole vendere, l'ha un po' scaricato sia Aurelio De Laurentiis che Rafa Benitez, il Napoli vuole 10 milioni, l'Inter ne ha offerti 6, si tratta comunque sia filtra ottimismo e per il giocatore pronto un quadriennale da 1.800.000 euro. Sì, non so se l'uomo che risponde in assoluto alle esigenze tattiche di Mazzarri, che Mazzarri comunque il 3-5-2 è, Rossi, è arrivato a Luis Gustavo, alla fine si deve accontentare di Berami. Non solo Berami, però ne vorrebbe due di tasselli. Berami potrebbe essere un Taider in meglio rispetto al giocatore franco algerino. C'è Luca da Ravenna o è caduto? No, è caduto. Pier, ti convince Berami all'Inter? No, mi convince sul fatto che si farà sicuramente, perché mi sembra ormai si è parlato in casa a Napoli e il legame con Mazzarri è buono. Mi sembra sinceramente un acquisto così che ci sta per fare rosa, per poter fare un centrocampo muscolare, è un buon recuperatore di palloni. Berami quest'anno è stato molto condizionato dagli infortuni, insomma è un giocatore che con Mazzarri ha tirato fuori il meglio, ma insomma non è il giocatore che fa fare il salto di qualità al centrocampo dell'Inter, su questo non ci sono discussioni, però insomma è un 10 milioni mi sembrano tanti, ecco, 10 milioni mi sembrano tanti. Mi sembrano sì, 10 milioni non è un trattamento da società amica, come ha detto De Laurentiis parlando dell'Inter. Pier, ti saluto, a domani. Ciao ragazzi, ciao. Dopo il GR delle 14 con Carlo Genta, Giro d'Italia, parliamo di Giro d'Italia. Ciao Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao, buonasera a tutti. Ti trovi ai 1800 metri di Monte Campione. Esattamente, sono qua nel rifugio e abbiamo vissuto una grandissima giornata di sport e di ciclismo. Finalmente è nata una stella. Guarda, è una stella che cercavamo, che io avevo già anche annunciato 10 giorni prima del Giro d'Italia con Carlo Genta. La speranza era questa ragazza, che è il suo secondo Giro d'Italia, l'anno scorso ha fatto esperienza, ne farà anche quest'anno, non c'è da illudersi, è molto giovane, corre da poco perché ha cominciato a correre a 15 anni, quindi non ha una esperienza e un cumulo di fatica eccessiva, però c'è entusiasmo e classe da vendere e oggi l'ha dimostrato. Su una salita molto impegnativa, molto lunga, con pendenze non impossibili ma di rapporto, si dice tecnicamente, cioè una salita che ti invoglia, se stai bene, ad avere un rapporto duro, quindi che sviluppa più metri. E lui veramente ha fatto vedere qualcosa di eccezionale, ha fatto uno scatto diciamo dimostrativo, quasi per testare le sue reali condizioni e vedere la reazione del gruppo. Gli è rimasto alle sue spalle solo la maglia rosa, solo Rigoberto Urán, e quando ha visto che anche Rigoberto Urán era affaticato, ha rifiatato ed è partito a 2 chilometri e ha fatto questo bellissimo assolo. Io vi dico solo una cosa, che su questa vetta ci siamo saliti, questa qui è la terza volta a Monte Campione. Nel 1982 vinse Bernard Hinault, che si mise la maglia rosa e conquistò il Giro d'Italia, e poi nel 1998 un certo Marco Pantani che vinse il Giro d'Italia. Sì, adesso non dico che Fabio Aru vinca il Giro d'Italia, no, esatto, però anche se è quarto in classifica, 2:24 da Urán, c'è da capire se in quest'ultima settimana, dove ci saranno salite praticamente tutti i giorni, venerdì c'è la cronoscalata, sabato addirittura lo Zoncolan, sono tanti chilometri, c'è da capire se avrà anche la forza psicologica di reggere a questo punto un ruolo diverso da quello che si è disegnato all'inizio di questo giro. Sì, lui lui questo ruolo ce l'ha ormai da quando si è fatto male Michele Scarponi, che era venuto qua per fare una buona classifica Scarponi e accudire il più possibile e togliere pressione ad Aru. In realtà Scarponi è caduto, si è fatto male, lui si è trovato subito in classifica, quindi questo ruolo ce l'ha praticamente da una settimana abbondante e si sta trovando a suo agio. Lui adesso è entusiasta, è leggero, sta bene e arrivano delle salite che possono sembrare di più, delle salite che la possono mettere in crisi. In realtà lui si trova molto bene su salite anche di altissimo vetro, anche sopra i 2000 metri. Intanto bisogna capire se martedì si correrà il tappone con Gavia, passo del Gavia, con lo Steglio e l'arrivo. Sì, perché c'è tanta neve, abbiamo visto anche delle immagini del Gavia affascinanti, ma poco compatibili con il ciclismo, almeno con il ciclismo moderno, con queste mura di neve. Soprattutto perché oggi si correrebbe, il problema è che viene data pioggia giù e su è neve, perché si arriva a 2600 metri, quindi non si scherza. Un po' cinicamente ci speriamo, così viviamo una tappa meravigliosa, tu un po' meno perché prendi parecchio freddo, però il ciclismo è bello anche per questo. Ti chiedo invece degli altri, quelli che sono andati in difficoltà a partire dalla maglia rosa, poi Pozzovivo, poi Cadelevans, che pure è sempre in classifica, evidentemente è un giro più aperto di quanto si immaginasse la vigilia. È un giro apertissimo e molto livellato, l'ha dimostrato anche oggi, l'unico veramente sprazzo di luce è stato dato da Fabio Ari, gli altri sono tutti molto più vicini. Rigoberto Urán secondo me oggi ha corso con un'intelligenza sopraffina, lui ha rischiato di saltare, però invece ha capito che poteva saltare, è andato su col suo passo e ha perso molto poco, anzi per assurdo lui ha portato a casa la pelle vuol dire maglia rosa, e ha anche accumulato un discreto vantaggio, perché ha portato a 1.03 il vantaggio su Evans lo vedo un po' in difficoltà, anche se sarà duro da buttare giù. Pozzovivo è quello che in questa giornata ha tutti gli effetti vissuto la sua giornata, no, e non è un buon segno, perché già ieri non era brillantissimo, ha scatenato lui la bagarre all'inizio, sì, e poi si è trovato senza gambe, ma dopo si è seduto e piano piano si è staccato, esatto, e oggi ha pagato e temo che possa pagare ancora di più nelle prossime giornate, anche se saranno salute molto più lunghe, molto più dure, dove un esopiuma come lui potrebbe trovarsi meglio, ma la giornata di oggi non mi ha convinto. Quintana sta cercando di guarire in bicicletta, non è una cosa facile, ma ci sta riuscendo, l'ha dimostrato anche oggi, non sta benissimo, non è il Quintana visto l'anno scorso. Sì, deve fare in fretta però, perché da martedì domani non c'è futuro per chi non sta benissimo, per chi non è al 100%. Tante salite, tappe difficili, lunghe. Pieraugusto, ti saluto. Un saluto a tutti, ciao, a domani. A domani, Pier. Siamo in fondo? Sì, siamo in fondo. Luigi da Latina, vediamo se riusciamo in 30 secondi. Luigi. Sì, ciao. Prego. Solo una testimonianza, voglio giustificare Moratti, perché ieri a Latina c'ero anch'io. Quando il presidente si è visto vedere tutte le immagini dei successi che ha avuto, 500 persone gli gridano solo un presidente, c'è solo un presidente, è normale che poi ti escono dalla bocca certe frasi, perché rivedere quello che hai fatto e sentire l'affetto del pubblico ancora forte su di lui, è normale che poi ti lasci andare a certe dichiarazioni. Tutto sì, questo che oggi abbiamo letto ha in parte rettificato. Grazie Luigi. Prego, ciao. Ci fermiamo qui, grazie a Nicolo Schira, grazie a Laura Vanossi, autore di questa puntata, Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato in regia. Noi torniamo ancora domenica prossima a partire dalle 17, poi ve lo ricordo, durante i mondiali raddoppiamo, saremo in onda anche il sabato con tutti i convocati weekend. Ci sentiamo settimana prossima, ciao.